Runtime Radio presenta OGM OGM E amici di Runtime, buonasera, bentrovati con questa sempre entusiasmantissima sigla. Oggi è una puntata un po' particolare perché, come immaginerete, parleremo per forza di cose, di eventi che si stanno verificando proprio in queste ore, in questi minuti. Prima di farlo però permettetemi di salutare quelli che oggi ci faranno compagnia. Avrete già notato che l'introduzione non è di Simone come succede di solito il lunedì sera. Ci sono io. Simone si è preso una... salta un turno, si è preso una puntata di pausa perché avete visto, insomma, ci sono un po' di storie che riguardano la nuova arrivata in casa Pizzi, però poi magari avremo modo di parlarne. Però con me ci sono dei sodali, perché fare la puntata da solo veramente sarebbe una cosa imbarazzante. E prima di tutto, quindi, fatemi salutare Marco Gualdi. Ciao, ciao, vi saluto prima di poter scomparire da un momento all'altro, perché potrebbe succedere, perché però vi ho voluto bene nel caso, rivolsi bene. Ma sì, ma non ti preoccupare, Marco. E con l'occasione saluto anche, spero che ci sia perché poi non ha più proferito parola, il nostro Francesco Lobby Frontali. Non ci sono, dico solo che la fiducia deve essere un moto perpetuo che si attiva in maniera biunivoca. Ma la fdaucia, quella che diceva Silvio a colpi di dentiera? Questa ha detta Conte, e quando l'ha detta Conte Di Maio è esploso. Questa è di Spinoza e non è mia, quindi... Allora aspetta, ripeticela però, perché forse non ne ho colto le sfumature. Che Conte ha detto: la fiducia deve essere un moto perpetuo che si attiva in maniera biunivoca. A quel punto Di Maio è esploso. Questo da Spinoza Live. Sì sì, proprio la disperazione di Di Maio, che penso che si sia fermato a moto perpetuo, forse anche prima, forse anche a fiducia, perché non lo so, non so. Allà, si è fermato allà, allà. Può darsi, può darsi. Vabbè ragazzi, intanto buona serata, come va? Come va? Come vi sentite questa sera? Sto per farvi delle domande abbastanza insidiose. Sarai con me o con Spreakers? Col signor Spreakers? Beh, io lo chiedo a voi, poi, se Spreaker è una vostra estensione, una propagine, e quindi volete metterlo nel discorso, fate pure. Ma no, non ce la mettiamo. No. Cioè, non mettiamo troppa carne al fuoco, dai, poi si brucia tutto, si brucia Spreaker, si brucia tutti gli assets e poi oltre ai nostri neuroni che stanno bruciando da anni ormai, però la notte che bruciamo neuroni, sì. A esatto. Trovarlo ancora un neurone buono, per quanto mi riguarda, non so voi. Forse solo la notte che siamo messi a bruciare i neuroni, qua ci abbiamo passato anni a bruciarci i neuroni e siamo finiti a fare podcast. E poi che questa potrebbe sembrare la storia, fai conto, che ne so, di Rolling Stone, no? di Keith Richards o di siamo noi tre stronzi. Esatto. Esatto, vabbè. Vabbè ragazzi, fatemi dire una cosa subito in entrata di puntata, prima di poi salutare gli amici in chat e tutto il resto, perché dobbiamo fare un piccolo annuncio. Infatti Runtime Radio sta cambiando in meglio, si sta evolvendo, sta crescendo. Da lunedì 25 gennaio 2021, quindi da lunedì prossimo, Runtime Radio infatti diventa ufficialmente una web radio. Cosa vuol dire e cosa cambierà per chi è abituato ad ascoltare i podcast? Praticamente non cambierà nulla. Vuol dire che tutti coloro che usufruiscono dei nostri feed o ascoltano le nostre dirette tramite Spreaker non subiranno nessuna conseguenza, non ci sarà niente di diverso, potranno continuare come hanno sempre fatto. Allora dov'è la novità? Semplice, ci piace diversificare e quindi abbiamo voluto avere uno stream sempre attivo dove poter raccogliere i nostri vecchi podcast, mandare le repliche dei programmi attuali e creare ore di intrattenimento costante per chi si è annoiato delle solite radio. Inoltre, gradualmente ci saranno sempre più dirette e contenuti esclusivi, ma di questo poi ne parleremo in seguito. Nei prossimi giorni troverete sempre più informazioni e novità sul palinsesto su www.runtimeradio.it. Vi ricordo che Runtime è la web radio geek ed è la web radio di tutti. Non vi siete commossi un po'? Dopo questo deve mettere l'inno dell'Unione Sovietica. Questo ci stava tantissimo. Purtroppo sai che non ce l'ho tra gli asset. È una gravissima lacuna questa cosa. Va bene. Vabbè ragazzi, fatemi intanto salutare in chat chi ci ha già raggiunto per ascoltare in diretta i nostri deliri. Ci sono Cuciniere dallo Spazio Profondo e Angela. Poi ci sono tutta una serie di paghi di personaggi. Anche Dumboy, salutiamo Dumboy. Ma chi è questo Dumboy? Bravo Dumbo. Ragazzi, questo personaggio che si cela tutte le volte, ma chi è? Non lo so. Vabbè, ragazzi, quindi insomma, allora diamo subito, facciamo radio di servizio, diamo subito la notizia per chi non lo dovesse aver seguito in diretta. Per quei pochi che stanno guardando Maratona Mentana invece di ascoltare noi, già lo sanno. Tutti gli altri che invece appunto stanno ascoltando noi, forse non lo sanno, glielo diciamo che alla Camera c'è stato il via libera alla fiducia al governo Conte con 321 sì, quindi sono ben oltre quella che è la maggioranza assoluta. Addirittura la Renata Polverini ha votato la fiducia, mo non so se Polverini o Wolverine, non ho capito bene. È tutte e due, perché le fattezze sono quelle di Logan, ma di quello tozzo disegnato da storicamente, non il Logan, non è certo non è Kubert. No, volevo dire l'attore che interpreta Wolverine negli X-Men, Hugh Jackman. Perché sapete, no, Hugh Jackman è uno stangone, sarà alto tipo 1,90, non lo so, comunque ha un fisico ben diverso. Hanno dovuto prendere attori alti 2,20 per dargli una giusta prospettiva. Sì, il problema è questo che il Wolverine originale è un personaggio ben diverso, insomma un po' più tarchiato, un po' più tozzo, però vabbè, ecco, più simile alla Polverine, a Renata non te temo. Vabbè, non entriamo in questi discorsi. Comunque vabbè, alla Camera insomma il via libera era auspicato, era abbondantemente previsto. C'è stato un numero di voti positivi e di voti alla fiducia più alto di quello che ci si poteva aspettare, però diciamo che il risultato era messo in tasca a prescindere. Domani però potrebbero essere proprio bei casini, perché i famosi costruttori o responsabili, che dir si voglia, sono 5-6 meno di quelli, cioè con questi responsabili che pare siano stati trovati, mancano comunque 5-6 voti per avere la maggioranza assoluta al Senato, il che vuol dire che domani si potrebbe votare comunque la fiducia, ma si potrebbe avere un governo di minoranza, che è una situazione un po' scomoda, che secondo me non piace molto nemmeno a Mattarella. Voi che ne pensate? Iniziamo da Marco. Io non penso nulla, non so esattamente neanche di che cosa stai parlando, so che la gente lì parlava, diceva datemi la fiducia, però non ho capito perché, cioè che cosa è successo, io non ho capito che cosa è successo. Francesco, con l'occasione glielo spieghi tu? Spiegate, io non ho capito che cosa è successo. Renzi ha rotto il cazzo, questo è ma resto. Quello da anni, però non capisco sì, adesso dello specifico. Non ha smesso di rompere, cioè, il cazzo. Cioè si può rompere il cazzo ancora di più. Ma lui riesce a trovare ogni volta un livello superiore a quanto. Ma un superpotere questo. Sì. Bravo. Potrebbe essere anche lui un X-Men, anche se insomma, secondo me più che un X-Men lui è un XXXY-Man, non so se si capisce, però insomma gli ho dato del trisomico. E vabbè, diciamo che insomma ce l'ha messa veramente tutta per farsi odiare anche da quelli che probabilmente fino a ieri lo ignoravano, perché comunque sia lui è un personaggio così, ormai lo abbiamo capito, va oltre il come lo disegnano, lui deve essere sempre al centro dell'attenzione, e quando non è al potere abbiamo capito che il suo sport preferito è quello di fare danni nel momento in cui può fare più rumore, e ben venga, forse era il caso di pensarci prima di farci una maggioranza assieme. Ma insomma, se andiamo un attimo a ripercorrere l'iter che ha portato al Conte 2, in realtà, perché ricordiamo anche questo, il Conte 2 è stato in qualche modo benedetto dallo stesso Renzi quando ancora era nel PD, dopo aver permesso, diciamo, usiamo questo termine, la nascita del Conte 2, suggellando l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, dopo ha pensato bene di fare fagotto, prendersi qualche fedelissimo e fondare Italia Viva. Quindi oggi fa tanto lo smargiasso, fa tanto quello indignato da questo governo. O che si fa quello che dico io? No, non si fa quello che dico io, mi faccio un altro partito, maledetti. Cioè, un po' così. Sì, ha fatto più o meno così, esatto. Quindi oggi che tutte queste recriminazioni sembrano un po' tanto ipocrite, visto e considerato che, ecco, appunto il passato ci dice che questo governo è anche figlio suo, però vabbè, da Renzi insomma ormai non ci aspettiamo niente di diverso. Ma per esempio, Francesco, questa rinascita di Mastella da quel di Benevento, tu come l'hai vissuta? Che i miracoli sono possibili, soprattutto se sei plurindagato e se sei praticamente quasi inattivo, anche se in realtà dalle sue parti è ovviamente come qualsiasi politico, anche il più diciamo, stronzo, diciamo, il più trattato male. Nel, sempre, ricordo sempre che nel luogo d'origine è sempre abbastanza idolatrato, viene sempre considerato, e non è, accade lo stesso per Renzi dalle sue parti, la stessa cosa pure per Mastel, cioè. Poi c'è, cioè, quel meme bellissimo per la serie Raccontiamo i Meme, tutte quelle, no vabbè, non si può raccontare, devo ritrovare, non lo posso raccontare, quindi ritiro questa parte, questa rubrica, dai. Diciamo che se poi lo trovi, lo racconti, io giuro che un giorno di questi lo facciamo l'asset per la rubrica Racconta un Meme. Ricordiamoci che Mastella, se vuoi lo facciamo al volo, cioè la nostra, vai, la so dove trovarlo, la condivido, mano sotto la scella, Marco, vai di puzzetta. Dopo. No, comunque, insomma, stavo vedendo una cosa di William Shatner che poi abbiamo condiviso. Ok, dopo parliamo, ne parleremo di lui, sì. No, volevo dire, per chiudere la parentesi su Mastella, che lui attualmente è il sindaco di Benevento, quindi è attualmente ha una carica politica attiva, è un amministratore locale. Incredibile ma vero, infatti. Incredibile ma vero, ma quello che gli permette poi di fare questa sorta di responsabile, così sarà stato chiamato, quasi questa sorta di barbiere in piccione, è il fatto che la moglie Sandra Lonato è invece parlamentare, era stata eletta nel centrodestra, poi è passata al gruppo misto, quindi in qualche modo è il braccio armato, diciamolo così, definiamolo tra così. Tra l'altro io conosco una persona che faceva il vigile del fuoco perché ora in pensione, che ha salvato la moglie mentre stava affogando. La moglie di Mastella? O la moglie, non so se ho collegato le cose. La moglie di Mastella. Ah, ok. Vabbè, gesto nobile, così. Insomma, gesto nobile. Ma invece, ragazzi, comunque ho trovato il meme, lo racconto, fate l'asset, dai. Vai, Marco. Racconta un meme. Allora, questo è quel meme, non so qual è il nome tecnico, perché sapete, tutti i meme hanno dei nomi tecnici, vengono classificati in un certo modo. Quello dove ci sono varie piastrelle, una vicino all'altra, pronte a farle cadere, se avete presente, tipo domino, tipo tessere del domino, solo una più grande dell'altra. La più piccola, e c'è il tizio che le sta facendo cadere, partendo da quella più piccola, minuscola. Quella minuscola si chiama un contadino cinese mangia una zuppa di pipistrello. Quella grossa, all'ultimo si chiama Clemente Mastella, nuovo protagonista della scena politica italiana. Per la rubrica Racconto un Meme è tutto. Grazie dello studio, riprende la linea. Sì, effettivamente, veramente, diciamo la verità, ce l'eravamo tutti quanti ben dimenticato Mastella, e senza neanche dispiacere. Esatto. Sì. Oh, salutiamo anche Simone Pizzi che ci sta ascoltando da oggi, è ascoltatore invece che Deus Ex Machina. Sta cercando di fermare il cane che gli sta sbranando le ciabatte, sicuramente. È probabile, ma io sono curioso di conoscere Scozia, perché insomma voglio proprio vedere adesso che questa specie di arca di Noè di casa Pizzi si è composta. Ormai praticamente Pizzi vive con quattro donne. Scusa, posso? Si pronuncia Arcadino, hai ragione Marco, perdona la leggerezza, la superficialità, ma non ho studiato lingue, devo dire, devo confessare. E vabbè, comunque abbiamo assodato, insomma, la prima fiducia l'abbiamo sfangata, ma io adesso vorrei farvi una domanda, che è qualcosa che io vi chiedo perché potrebbe aiutarmi a farmi a mia volta un'opinione personale. Bene o male, quello che pensiamo un po' tutti di Renzi lo abbiamo detto, ridetto mille volte. Adesso invece io vi faccio un'altra domanda. Ma di Conte cosa ne pensate? Che idea avete di questo personaggio che nel primo governo Conte sembrava un po' la banderuola di Salvini e Di Maio, invece nel secondo governo a suo nome in qualche modo si è emancipato? Marco? Beh, guarda, già aveva andato a fanculo indirettamente Salvini, secondo me già lì aveva guadagnato 12-13 mila punti, no? Comunque, insomma, indirettamente un par de palli, in modo elegante più che altro. Esatto, sì. Oggi con Renzi è stato più indiretto, perché oggi non l'ha mai nominato, mentre invece con Salvini fu molto diretto ed esplicito. Sì, Salvini e Meloni, soprattutto, più di un'occasione anche durante la pandemia. Nomi e cognomi, mortacci vostri. Beh sì, con la differenza che la Meloni all'epoca comunque era l'opposizione, perché la Lega era a governo con il Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia no. No, nomi e cognomi, l'aveva detto durante il lockdown. Sì, sì, durante il lockdown, assolutamente. Sì, sì, sì, sì, no, era per... ok. Ah, ecco, ecco. E quindi sì, insomma, cioè, che dire, allora, io non so se politicamente sia una persona valida o se magari si trova la persona sbagliata al momento giusto, quello non lo so, io comunque ho sempre l'immagine di un presidente del consiglio diverso con un centrodestra e un ministro del che cazzo ne so che va in giro senza la mascherina a farsi selfie. In un mondo parallelo c'è questa cosa? Ma mi sa che proprio in questo non ci avrebbero avuto 300, 400, 500 morti al giorno, ma probabilmente ci avrei aggiunto uno zero. Proprio. Forse ah, sì, sì. Mezzo da qualche parte ci avrei messo uno zero e non alla sinistra, insomma. Certo. Quindi tutto sommato possiamo dirci che per quanto possa essere bravo o non bravo, tutto sommato nella situazione, proprio nel contesto, probabilmente ha salvato delle vite. Però se ci pensiamo bene è stato Salvini a far cadere il vecchio governo, quindi forse anche lui indirettamente ha salvato delle vite. Sì, infatti questo lo ringrazio, grazie a un mito. È stato grazie a se stesso che... Ma forse se pensiamo bene il barista che gli ha messo più alcol nel mojito, forse è stato lui a salvare più vite. Cioè questo è l'effetto farfalla. Ritorniamo a quel meme di prima, cioè, forse ragazzi, è stato qui anche il produttore di quello spritz, di quel mojito, di quello che cazzo era, il produttore del che, a base di che alcol c'è il rum, cioè, che c'è il rum? No, nel mojito c'è la menta, c'è la cachaça in quello originale, da seconda poi dalla di quale parte del Sud America lo vai a bere, però ci dovrebbe qual essere qual è la parte alcolica principale? La cachaça dovrebbe essere. La cachaça. Vabbè, forse il produttore di cachaça che l'ha fatto sufficientemente alcolico da farlo inebriare. Abbiamo... A questo ci mettiamo più alcol, così sì. È funzionato. E poi ricordiamo, pure ho letto da qualche altra parte, almeno quando Matteo Salvini ha fatto scatenata la crisi del governo, almeno era al papete, ubriaco e a 40 gradi. Invece no, Renzi è proprio lui e basta, cioè, ma non perché, c'è bisogno. Perché Renzi si ubriaca di se stesso? Questa è ma piena. Probabilmente se fosse stato ubriaco non avrebbe fatto cioè, non avrebbe fatto cadere il governo così al naso. Può darsi, non lo so, sinceramente non lo so. Ma per esempio Francesco, Conte è amico di Trump, perché è stato accusato anche di questo, non fosse altro che per il fatto di non aver mai preso una posizione particolarmente schierata quando Biden ha vinto le recenti elezioni americane, eccetera. Ma oggi è stato accusato persino da Salvini di essere amico di Trump. Salvini, quello che nella mascherina aveva l'ultimo mese prima delle elezioni la scritta pro Trump, esatto. Chi qui è veramente amico di Trump? Oppure forse in qualche modo Salvini ci sta dicendo che è stato geloso? Poi ricordiamoci, qualunque presidente del consiglio in Italia, da che storia è storia, è un pochino asservito e servile a quello che è il presidente degli Stati Uniti in carica. Quindi definire trumpista, trampiano, forse che è stato un pochino che è un pochino dato filo da torcere, è stato forse crack, sì, forse l'ultimo, quello è un pochino, non dico opposto, però comunque che ha rotto un po' il cazzo agli USA, sì, diciamo, ma un minimo, però, proprio un minimo, sì, per dirti, l'ultimo è stato lui che ha dato un filino di filo da torcere, ha detto do cazzo mettete mani voi, andatene a fanculo, l'unico un pochino. E sto dicendo una cosa buona di crack, sì, ragazzi, siamo arrivati a questo punto. Vabbè, sì, ma guarda che la classe politica di oggi ci farà rivalutare tutti i personaggi della Prima Repubblica e ci farà dire che forse oggi, tutto sommato, meglio quelli. È l'era della rivalutazione. Sì, sì, è l'era della rivalutazione, assolutamente. Delle rivalutazioni irrevocabili. Andreotti, Nixon, esatto, Nixon in America, cioè ci sono delle cose, se stava meglio quando se stava peggio, raga. Cioè, porca troia. Niente, cioè non ne usciamo. Mamma no, mia, e pensate che noi la nostra fase buia ancora ce la dobbiamo vivere. Non ci auguriamo, no, no. Cioè, ci auguriamo che non c'è, di non arrivarci, però la sensazione, il sentire è quello che comunque nel 2023 una bottarella di sovranismo ci toccherà. Vediamo che succede da qui ad allora. Secondo me molto dipenderà anche dalle mosse dei prossimi mesi. Ricordiamoci che questo è l'ultimo anno di Mattarella, a giugno entrerà nel semestre bianco, non penso proprio sia intenzionato a ricandidarsi, quindi dovremo anche capire quale governo eleggerà il prossimo Presidente della Repubblica, perché sarà una mossa strategica, e cerchiamo anche poi di capire quale sarà l'atteggiamento di Biden e se il nuovo corso americano in qualche modo aiuterà a aprire un pochino le finestre e far uscire un pochino di questa puzza di sovranismo che c'è in tutte le stanze occidentali. Biden, se è ripromesso che... Scusami, se ripromesso entro gennaio con 10 manovre, cioè con 10 punti di spazzare via Trump dalla storia, perché da Biden di formattarlo. Esatto, da Biden a Biden il passo è breve, insomma, per cui puliamo il culo all'America. Che scena Make brutta. American culo, great again, clean again. White again, in quel caso. White again. Quel caso è giusto, in quel again. Caso è giusto, sì. Con lo sbiancamento anale, è vero. Yeah. Vabbè, comunque ragazzi, quindi insomma resta il dubbio su cercare di capire che personaggio è il Presidente del Consiglio, che però tutto sommato, dai, male, allora, come possiamo fare a collocarlo in maniera oggettiva? Non è un genio del governo, non è che... prima del Covid potessimo ricordarci attività memorabili di questo presidente. C'è da dire che dopo il Covid tutti gli schemi sono saltati, non è che all'estero le cose vadano meglio che in Italia, e per paradosso noi siamo diventati uno dei paesi che dopo la primissima bordata il Covid ha gestito meglio di altri. Abbiamo avuto un numero di decessi molto alto, siamo tra i primi in Europa, però è vero anche che abbiamo una popolazione con un'età media avanzatissima, quindi abbiamo delle condizioni specifiche che in parallelo, in paragone al resto d'Europa, ci mettono in difficoltà a prescindere da come poi la pandemia sia stata gestita a livello sanitario, secondo me, no? Sì, ma trovare un riscontro oggettivo, cioè questo probabilmente la cosa più oggettiva che potremmo dire sarà lo diranno gli storici tra almeno una decina d'anni. Quindi più di tanto non si può dire. Però sicuramente, cioè, le condizioni, poi ancora ci sono degli studi, però ancora non ci sono proprio delle cause effettivo, proprio deterministi, ha detto le difficoltà di leader sono state queste. Sicuramente sì, l'età media molto alta, ma anche il fatto che comunque di cultura siamo molto più ravvicinati a contatto con, in particolare proprio con gli anziani e con le persone in generale, con i nuclei familiari sono sempre molto ristretti, molto, cioè c'è molto contatto ravvicinato rispetto magari ad altri stati in cui hanno un po' i cazzi loro, in cui il vecchiaccio, una volta che ha raggiunto una certa età, lo deportano. Lo deportano dove essere deportato. I giovincelli a 18, 19, 20 anni li mandano a fanculo fuori di casa, forse torna per le feste, forse. Invece noi comunque siamo in una realtà in cui fino a 30, 40, 50 anni stiamo ancora con mamma. Il vecchiarello, e che fai? È peccato, lo metti nell'ospizio, ce lo teniamo a casa. Non sto facendo una critica, è giusto un modo approssimativo per descrivere la realtà italiana. Non sto dicendo che né è meglio né peggio, però comunque le condizioni hanno permesso che abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto. Poi in realtà un pochino di indecisioni, comunque di inciampi di questo governo ne ha avuto, anche per la recente manovra, comunque per le recenti divisioni in zone. Io comunque da questo punto di vista sono apro e chiudo l'imperatore. Stavolta non c'è nessuno, perché non ha detto niente di eclatante, a parte che vuole fare in modo che la Campania sia la prima regione in Europa ad uscire dalla pandemia. Comunque che questa facendosi tutte le dosi di vaccino lui, immagino il piano è quello, e poi sputando sulla pizza di tutti. Cioè sarebbe stato forse, cioè si crea solo confusione a fare oggi siamo gialli, oggi arancioni, il giallo vuol dire questo, tranne per tutto questo sembra davvero un manuale di un gioco di Dungeons and Dragons, di andare a vedere tutte le misure, tutte le cose, e senza voler applicare un minimo tra virgolette di interpretazione, cioè voler fare tutte le regole complesse è ad hoc, sempre facendo delle deroghe, contro deroghe molto specifiche per accontentare questo e non scontentare l'altro. Questo atteggiamento comunque di democristiano, direi, ma come atteggiamento di non cercare di scontentare nessuno, sta scontentando, forse non dico sta scontentando tutti, però comunque sarebbe stato più forse io non sono uno statista, non so tutte le difficoltà e le complessità che devono hanno affrontato e stanno affrontando, quindi non mi va di fare l'allenatore da poltrona, diciamo, dicendo che forse fare un'unica misura generale in tutta Italia con alcune zone specifiche con delle misure più ristrette, vedi per esempio l'eterna Lombardia che continua ad essere a voler aprirsi comunque e ovunque, quando in realtà dovrebbe stare chiusa e rimanere chiusa anche dopo, fin dopo devono fare tutti i vaccini, devono farsi tutti gli abitanti, devono farsi tutti i geni, devono farsi sia il Pfizer sia il Moderna, tutti devono farsi, e forse si può aprire, cioè forse sarebbe stato più chiaro, diciamo, fare un'unica misura in tutta Italia senza questa divisione, queste deroghe e contro deroghe. Forse bisognava essere più coraggiosi da questo punto di vista, però ma lì si è visto il cambio di passo rispetto alla prima ondata, c'è questa cosa di chiamarle ondate, mo si parla della terza, ma vabbè. E comunque in primavera c'è stata la necessità del lockdown duro, rigido, ha funzionato, ci ha traghettato verso un'estate in cui forse saremmo dovuti stare tutti più attenti, però che comunque è stata un'estate quasi normale, mettiamola così. Nella seconda ondata invece non si è voluto ripetere quella rigidità, quella severità, quell'autorità, si è deciso, appunto, come hai detto tu, per tutta questa operazione Arlecchino, colori vari, oggi apriamo, domani un po' meno, dopodomani chiudiamo. I criteri, io non li ho letti, non li conosco bene i 21 criteri, quindi non parlo con cognizione di causa, però comunque se c'è un dubbio, cioè ci sono abbastanza applicati con molti dubbi, comunque, perché comunque si vedono alcune regioni che sono ampiamente in difficoltà essere un pochino più aperte, altre regioni più tranquille che magari insistono ad essere arancioni, addirittura rossi, però non lo so, non sto, guarda, facendo, io credo che uno dei parametri per informato, no, io il parametro è l'RTS lì, dove non è l'RTS, no, allora ragazzi, sono parametri di cui non mi ricordo, anche per secondo me il parametro reale che stanno utilizzando a parità o in inferiorità di indice RT è il livello di saturazione degli ospedali, perché è chiaro che anche se tu hai un indice RT più basso, che non deve superare il 30%, esatto, se si supera la soglia critica delle terapie intensive tu puoi avere anche una tendenza a scendere, ma se rischi di non avere posti letto negli ospedali la situazione diventa ingestibile, a prescindere il problema, sì, però non se sono i malati a casa sintomatici, sale a uno comunque a prescindere ti metto in arancione pure se gli altri parametri sono bassi. Sì adesso esatto, adesso li hanno anche ridotti. Il discorso è che probabilmente rispetto alla prima ondata si sono anche fatti due conti, hanno ricevuto, io immagino, le prime stime di quello che abbiamo perso in termini di produttività e hanno paura a richiuderci tutti quanti veramente come nel lockdown di primavera, perché altrimenti l'economia collasserebbe veramente. Anche diciamo perché, che parlando cinicamente, che ci sono adesso, quindi 500, 300, 500, 600 morti, comunque la media stiamo sui 500 credo, circa, direi di sì, e cinicamente forse un numero che secondo me ritengono accettabile, un conto sono 500 morti, 600 morti in due regioni, un conto è in 21 regioni, forse probabilmente i loro conti sono che ci possiamo sta, è brutto, però secondo me sì, ma poi sono conti che in un certo senso si devono anche fare, come l'altra settimana c'è stato lo scandalo da chi ha saputo che nel piano pandemico c'è scritto che in caso di necessità si applica un protocollo per decidere, quello nuovo, quello che sostanzialmente se non bastano le risorse bisogna decidere chi curare. Io credo che in un piano pandemico questo sia normale che ci sia, anche se la gente adesso si è scandalizzata e ha approfittato per dare addosso al conto anche in quello. I piani pandemici, scusami, sono tutti ottimistici, cioè si può fare sempre tutto nei piani pandemici, nel piano pandemico sono ottimisti per la serie, non ci sarà mai una pandemia, Esatto, sa, bisogna, perché servono a questo, no? Servono a gestire le situazioni quando è tutto perfetto, non quando le cose vanno male. Cioè, quando è tutto perfetto, in condizioni ottimali, c'è un piano pandemico, ovviamente. Cioè, mi sembra una cosa, una concezione normale, no? Ed è così che funziona proprio. Comunque, vabbè. Quindi, se tu ci vai a scrivere, guarda, che se stiamo con un po' con le pezze al culo, bisogna fare un attimo di screening, di triage. Non si fa queste cose, no? Cioè, chi lo farebbe? Chi verrebbe in mente? A cazzarella, bisogna fare le cose a cazzarella, giustamente. Come fanno, diciamolo, in Lombardia, dove dopo aver defenestrato l'assessore al welfare Gallera, sono. Wallera. Hanno... Wallera o non Gallera? Non so come si pronuncia, non sto... Gallera, credo Gallera. La nuova Wallera, scelta per la sostituta è caduta su Letizia Moratti, già. Progenio. Già, ricordiamolo, sindaco di Milano, nonché madre del Batman Lombardo, non so se vi ricordate la Batcaverna. E vabbè, però insomma, non l'ha fatto rimpiangere nemmeno per un minuto, giusto? No, infatti, perché già una delle cose ha proposto quattro criteri per la diffusione, per la distribuzione dei vaccini, è uno di questi più importanti, anche il PIL regionale. Esatto. Giustamente alle regioni più ricche toccano più vaccini. Quelli che logico, producono perché... muoiono. Mi sembra giusto, sì. Cioè, un criterio importante anche questo. Sì, è un use it or lose it, cioè se non lavori sei un peso, quindi... Vabbè, giusto, sì, ma sai, è anche un po' come scegliere i parametri in base al proprio uso e consumo migliore, no? Un po' questo è un'eredità berlusconismo, alcuni, scusate. Sì, però devo dirti, alcuni osservatori hanno affermato che, leggo testuali parole, una serie di integrazioni che mi sembrano estremamente coerenti e logiche. E questo è stato Attilio Fontana. Ah, certo. Vabbè. Allora immagino che il governatore della regione Molise dirà che più dosi di vaccino devono andare a quelli che fanno la pezzata piuttosto a quelli che fanno i caciocavalli. Cioè, non lo so. Vabbè, comunque, d'altra parte, la Lombardia è stata devastata scientemente da questo manipolo di eroi post berlusconiani e leghisti che continuano a devastare la loro regione. Io mi auguro che i lombardi prendano provvedimenti alle prossime elezioni regionali, ma onestamente non so cosa aspettarmi da loro. A proposito di leghisti, possiamo passare, forse appena vi imbecco capite a cosa mi rivolgo, questo è il momento delle bestemmie, il momento delle vere bestemmie, perché nel Vercellese, a San Germano Vercellese, hanno messo ai domiciliari la sindaca e quella che all'epoca era il consigliere, perché nella distribuzione di pacchi e di risorse che venivano dati alle famiglie alle famiglie indigenti, anche e soprattutto durante il Covid, hanno fatto un pochino a figli e figliastri, migranti, anziani, gente povera, gli diamo noi il pacco per sfigati o un cazzo, a gente, amici di amici, riccastri, altro, davano un bel po' di risorse, diciamo i pacchetti premium, diciamo così. Hanno fatto un po' di intercettazioni in cui si veniva esternato abbastanza esplicitamente il loro esplicito razzismo, anche nei confronti per esempio di famiglie magari che per questioni religiose strane, magari musulmane o di altre, soprattutto musulmane credo, che magari per gli andavano a dare, che cavolo ne so, il prosciutto in a fette, magari per questione religiosa hanno rispedito indietro dei pacchi e non hanno portato più un cazzo, però cioè neanche fare questo minimo sforzo di dire a sta gente, cioè per religione, praticamente la situazione è ancora peggio, cioè questa signora praticamente gli ha chiesto, questa ragazza extracomunitaria ha chiesto di non mandare alimenti che appunto per religione non avrebbero potuto, quindi ha chiesto lei, ha detto scusate, visto che sennò vanno sprecati, giustamente non me li mandate, sta pezza di merda, cosa bella, la merda, cosa più stronza, capito? La cosa, sì, più qua stiamo parlando comunque di... poi sono, scusate, sono stati distrutti tutti gli atti del protocollo delle richieste, praticamente anche dal punto di vista burocratico hanno cercato di far sparire tutto e di insabbiare tutto. Ma infatti la cosa ha preso subito il connotato di reato, tant'è che la ormai ex, perché ha dato le dimissioni, sindaca del comune del Vercellese, è anche agli arresti domiciliari e si farà un bel processino. E tra l'altro Salvini in queste ore ha ordinato di ha invocato citato da Dannazio Memoria per tutta una serie di immagini, di foto sui social che giravano, in cui lui, come sempre pronto, si era fatto ritrarre con questa persona. E quindi ovviamente adesso stanno la bestia sta cercando di nascondere sotto il tappeto quest'ennesima debacle vergognosa di Salvini, e il web ha subito reagito facendo repost continuo di queste immagini ovviamente. E meme ovviamente, perché è una cosa che non si potrà dimenticare. Io non so se i politici finalmente, dopo tutta questa sequenza infinita di figure di merda, hanno capito che nell'era dei social non puoi più usare la tattica di una volta, che era sperare che gli elettori dimentichino quello che avevi detto il giorno prima. Purtroppo ormai tutto quello che dici e tutte le volte che ti contraddici ti si ritorcerà contro, perché ci saranno sempre quelle persone. Ma sai che c'è il problema, Walter, che la gente dimentica uguale. Cioè, chi comunque vuole votarti, anche se ti fanno vedere una foto con Adolf Hitler, dice: no, vabbè, ma tanto lui è una buona persona. Cioè, probabilmente è così. Purtroppo, però qualcuno che ti fa ricordare peggiore, all'ultimo momento, e ti lascia un pochino quantomeno il seme del dubbio, secondo me adesso c'è più che in passato. Sì, a volte, anzi, addirittura ho usato come una sorta di fregio quasi. Ha detto: brava sta razzista, brava, questa non li dava i negri, l'hanno arrestata ingiustamente, ha fatto bene, ha rivuto. Cioè, a volte in realtà proprio per le questioni, per queste caratteristiche, diciamo, discutibile e disprezzabile, la gente li vota proprio per questi. Ah vabbè, certo, purtroppo se parti dal presupposto che vuoi quel comportamento, sì, quello diventerà una sorta di segno positivo nel curriculum. Il problema è che oggi gli elettori sono fan, non sono elettori, per cui il fan che ti bestemmia se tu gli fai notare che il tuo idolo ha fatto una cazzata, non è che dice: oh, ha fatto una cazzata, no, maledetto, stai infamando il mio idolo. È così che funziona, purtroppo. Dice intanto in chat l'ingegnere dallo spaccio profondo: era vegetariano e amava gli animali, ma credo di non aver colto il riferimento. No, vabbè. Cuciniere, esprimiti meglio. Cuciniere. Sì, esatto. Cuciniere, facci sapere. Vegetariana, amava agli animali. Agli animali. Vabbè, comunque, ragazzi, insomma, che vi devo dire? Potremmo stare a parlare di cose frustranti di politica anche fino alle 22:30, ma tutto sommato, ma chi ce lo fa fare? Giustamente, chi ce lo fa fare? Esatto. Quindi, qualche altra cosa. Io una cosa che non c'entra assolutamente un cazzo, ma ho postato un'immagine, un frame sulla nostra chat Morti di Bestemmie MDB The Original One, che è appena 6 mega e 2, però ritrae il nostro grande, mitico capitano Kirk, James Tiberius Kirk, cioè William Shatner. Per gli amici William Shatner, sì. Esatto, per gli amici Bill. Che praticamente combatte sul ring del WWF, del WWE per l'esattezza, gli anni 80, penso sia più o meno dopo l'era di TJ Hooker, e fa un incontro di wrestling, e non me lo sarei mai creso, quindi una cosa terribile, ragazzi. C'è anche sopra il titolo del video, in cui due commentano questa avventura di Shatner nel mondo del wrestling. Però veramente qualcosa di agghiacciante. Io direi che dopo Shatner cantautore, più canna che tautore, anche lo Shatner wrestler, secondo me, vale la pena di essere annoverato. Cioè, un personaggio a tutto tondo, ragazzi. Ma siamo sicuri che non è un deepfake o altro? Perché non mi pare proprio abbia il physique du roll, voglio dire. Però, insomma, per carità. Fidati, guarda, no, è lui, assolutamente. Assolutamente lui, no, l'ha fatto, evidentemente l'ha fatto. Allora, intanto, scusami, Cuciniere ci ha spiegato cosa intendeva. Il riferimento di prima era Hitler, che dice era una brava persona perché era vegetariano e amava gli animali. E nel frattempo Simone Pizzi corregge: no, Bill, ma Will. Beh, ma William, ah, no, William, Bill. William no, si no, contrae lui si Bill. Attenzione, lui si firma Bill. Esatto, di solito Bill è la contrazione di William, perché William è Guglielmo e Bill è Mimmo, sostanzialmente. Pizzi, ti assicuro che quando lo sentivo su Google Plus, lui si finiva mai, quando faceva i suoi post, scriveva My Best Bill, quindi son sicuro che era lui. Poi diceva: What, who are you, motherfucker? Ovviamente, lo chiedeva sempre. Era lì per la certezza, se stessimo parlando di lui. Esatto. Vabbè ragazzi, ma a sto punto vi domando, orfani che siamo delle nostre serie di fantascienza preferite o meno, a seconda di a chi lo dico, perché sappiamo che insomma Discovery a Francesco interessa un po' meno, però aveva gradito invece il Mandaloriano. Io sto facendo, vabbè, ascoltavo proprio, volentieri anche su Discovery, sto facendo una sorta di momento bulimico di serie TV, di film eccetera. E ho visto un sacco di cose in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, anche non proprio ad alto livello. Per esempio, ho visto il due film originali Netflix, uno dei quali con Anthony Mackie, che si chiama Outside the Wire, che è un film di una bruttezza unica, vi consiglio di vederlo. Se prima già odiavate un pochino Anthony Mackie, dopo questo film lo vorreste investire con la macchina. E invece ho poi visto ieri sera un altro thriller d'azione con Jessica Chastain che si chiama Ava, discreto, anche con tra l'altro sì. Demonio, dai. Poi ho visto anche svariate altre cose, ma in particolare sto guardando, non l'ho ancora finita, una serie inglese, una produzione Sky Original che si chiama Gangs of London, che è la storia di potentissime famiglie della malavita londinese che combattono a seguito della morte di un capo famiglia, di un capo mafia molto potente. Ora, al di là del fatto che a quanto pare in Inghilterra, nel Regno Unito, la mafia viene spartita da un sacco di famiglie non propriamente locali, perché sì, da una parte ci sono gli inglesi e gli irlandesi a maggior ragione, ma dall'altra ci sono tanti immigrati che nel frattempo hanno radicato le loro mafie lì, pakistani, albanesi, greci, che altro c'è, macedoni, insomma veramente un purpurri di mafie. Ma la cosa inquietante di quella serie è che, se prima lamentavo del fatto che su Gomorra, che è in qualche modo un punto di riferimento, mancasse completamente la figura della polizia, in questa serie andiamo oltre, perché anche se c'è, lo vediamo subito dal primo episodio, un infiltrato all'interno di una di queste famiglie, per il resto la polizia è completamente assente, in un tripudio di violenza e di rappresentazione della violenza che farebbe invidia anche ad alcuni film della Blumhouse. Ma poi la cosa assurda è che proprio ci sono dei momenti di guerriglia pura, ci sono gruppi paramilitari che assaltano la campagna londinese, il centro di Londra, zona della City, e nessuno interviene, come fosse normale, dico, queste attività. Beh, di vanno in giro con i fischietti a Londra, ma che cazzo lo fa, dai. In che epoca è ambientata sta storia? È contemporanea. Ah vabbè, allora può essere che è così, No, capito, però certo. Fin quando mi fai vedere una malavita che controlla un territorio va bene, ma quando si scade nell'azione militare c'è qualcosa che non torna, cioè non può non esserci una reazione dello Stato. In Inghilterra negli ultimi mesi con la Brexit, che ne sai, magari è diventata così adesso, vince solo il più forte. Pesce grande mangia pesce piccolo, che ne sappiamo noi? Ormai sono fuori dall'Europa, può succedere di tutto in quella terra di barbari. Ah, può darsi, certo. Comunque, dice Cuciniere, in Gomorra manca la polizia, perché è nella realtà che manca la polizia. Sì, siamo d'accordo, però ad un certo punto, anche nella più connivente delle situazioni, qualcosa dovrebbe succedere. Insomma, a un certo punto la polizia dovrebbe apparire. E se in Gomorra non succede quasi mai, in quest'altra serie, che vi ripeto, è un tripudio di sangue e di violenza, scene che fanno impallidire un livello di Doom in certi momenti, appunto è completamente assente. Vabbè, ve lo livello di Doom Boy. Un livello di Doom Boy. Volevo raccontarvelo e chiedervi, voi invece cosa state guardando? C'è qualcosa che consigliereste? Allora, io chiudo, inizio e chiudo, perché in questo momento di fantascienza sto guardando insieme al Pizzi The Expanse, l'ultima stagione uscita, la penultima dovrebbe essere, sempre figa, sempre meglio, insomma, comunque, grande serie TV, grandi storie, grandi personaggi, veramente figo, anche se c'è quello spoilerone di un personaggio che non arriverà nella prossima stagione per colpa del Me Too, o per colpa sua, dipende dai punti di vista, e quindi niente, purtroppo ci sarà un personaggio della compagine principale che sparirà, sempre grazie al Midu o sempre grazie alle sue mani lunghe, non so che cacchio ha combinato, però sempre figo, bello. Se non avete visto, se non sapete di cosa state parlando, su Amazon The Expanse, tratto dalle omonime librerie dall'omonimo libro, serie, anzi di libri. Siamo arrivati alla quinta stagione, recuperatelo perché è veramente figo. Ok, altro o stai guardando solo quello? No, quello, qua stiamo ritornando su American Gods, però non è tanto fantascienza, quindi dicevo fantascienza. Vabbè, ma possiamo parlare anche di cose che non siano fantascienza, non è che no, io ho parlato di Gangs of London anche... che fantascienza non è. Abbiamo ricominciato sempre col Pizzi di andare, stiamo cercando di andare avanti ad American Gods, poi niente, altre cose, cioè nuovo di zecca zero in questo periodo. Francesco? Bah, fondamentalmente poco e niente, anzi ho rivisto in realtà una miniserie TV questa settimana, più o meno di 20-25 minuti a episodio, che si chiama I Predatori dell'Arca Perduta. Non so se l'avete mai visto. Ma l'hai visto a rate? È una miniserie, sì, perché lo vedo con una persona che dopo 15-20 minuti guarda un film, si addormenta, quindi qualsiasi film inevitabilmente diventa una serie, una miniserie. Quindi in 4-5 rate ce lo siamo visti, però... Mi ricorda dei trascorsi, sì, capisco. E, mi spiace che non c'è Carmine questa sera, però è stato coinvolto in una drammatica riunione di condominio, quindi non è potuto essere dei nostri, perché sennò per esempio avrei chiesto a lui, che è una voce autorevole in questo argomento, le impressioni su WandaVision. Ora vi domando, voi l'avete visto? No. No. Ok, pensate di vederlo? Boh. Dico boh. Boh. B-O-H. Consigliaci perché dovremmo vederlo. Per quale motivo dovremmo vederlo? Perché è qualcosa di completamente originale che rompe qualunque stereotipo e che non ha un termine di paragone precedente. E, è una serie particolarissima in cui l'antefatto è che troviamo Wanda e Visione inseriti in un contesto di una sitcom anni 50 che potrebbe essere molto molto similare a Bewitched, per capirci, quindi a Mia moglie è una strega, dovrebbe essere quello con la strega Samantha che sposa l'umano e poi hanno questo menage familiare in cui succedono delle cose ad ogni episodio. Ecco, sulla falsariga di quello troviamo, tant'è che la serie inizia in bianco e nero, come fu proprio anche Mia moglie è una strega, pure in 4/3 ho visto, proprio, esatto, ed in 4/3 si trovano questi due personaggi che sono appunto Wanda e Visione, quindi Scarlet Witch e Visione, in questo contesto, immersi in questa sitcom, e loro stessi in certi momenti sembrano essere molto intontiti, non riescono a spiegarsi fino in fondo perché stanno lì, cosa stanno facendo, eccetera, però vivono comunque questa routine di famiglia. Poi nell'arco già dei primi due episodi succedono un sacco di cose, la serie si evolve, passa subito in un'epoca leggermente avanzata, tant'è che a un certo punto arrivano i colori all'interno della serie, e è tutta un'altra ridda di particolari. E non sappiamo ancora dove andrà a parare, non sappiamo se ci troviamo in un universo, in un mondo onirico creato nella mente di uno o più personaggi, probabilmente in quello di Wanda, visto che potremmo ricordare che alla fine di Avengers, di Infinity Wars, di fatto Visione muore perché Thanos gli strappa la gemma dell'infinito dalla fronte e quindi fondamentalmente lo uccide. Quindi questa potrebbe essere una specie di reazione di Wanda che sta vivendo lo shock e lo sta somatizzando in questo modo, per esempio. Però al di là di questo, la serie è infarcita di piccoli e grandi dettagli che io, che non sono un lettore delle serie Marvel, mi sono dovuto andare a documentare dopo, e ce ne sono veramente tantissimi di particolari da indicare. Carmine probabilmente li avrà colti già guardando. Ecco, il suggerimento è questo: guardatela perché merita, è una cosa originalissima, però fatelo come dire prontuario alla mano, perché altrimenti probabilmente perdereste un sacco di significato. In che senso prontuario alla mano? Nel senso che bisogna conoscere già chi sono, dei trascorsi, questa cosa? No, al di là di loro bisogna che dopo andiate a cercarvi, come ho fatto io, i mille riferimenti e citazioni che ci sono in ogni scena, in ogni dettaglio di questa serie. Ogni episodio dura circa 30 minuti e tutto quello che succede ha un'enorme serie di riferimenti nel mondo Marvel, che serve poi a spiegare cosa stiamo guardando, perché altrimenti sembrerebbe solo di stare a guardare una serie parodistica. Ovviamente tutto fuor che quello. Se vogliamo capire bene cosa sta succedendo e quindi andare oltre la facciata delle scene che vengono raccontate, servono sicuramente una preparazione sull'universo Marvel che non è da poco. Però anche per i neofiti può andare bene, spero, no? È divertente. Poi qualunque neofita comunque avrà un minimo di familiarità con i personaggi, sa chi sono Visione e Wanda Maximoff, insomma, quindi sanno anche che lei è una strega potentissima, ha dei poteri mentali talmente potenti che per certi momenti ha anche quasi tenuto testa a Thanos, quindi insomma stiamo parlando di uno dei personaggi. Beh, tecnicamente uno di quelli che vengono definiti nella Marvel un mutante omega, per cui di quelli che non gli devi romper cazzo. Sì, beh, in realtà Wanda Maximoff non è propriamente un mutante, lei è frutto di un esperimento che aveva lei e il fratello erano state vittime di esperimenti a Sokovia. Sì, sono figli illegittimi, non si è mai capito, cioè io non lo so di preciso, però dovrebbero avere un legame diretto con Magneto. Sono figli di Magneto, sì, quindi comunque sono dei mutanti che poi sono, oltre ad essere mutanti, lei è stata addestrata alla stregoneria, però cioè, non conosco neanche io tanto bene la storia. Cioè, sì. Ci manca il pucciometro. Esatto, infatti sicuramente poi ne parliamo meglio la prossima settimana. Questa settimana Wikipuccio o Pucciopedia. Come dice Simone Pizzi, talmente potente che leva dal cazzo, che poi credo sia Simone perché si è incarnato in Rantem Radio, però va bene così. Mi raccomando, Pucciopedia e non Pucciopedo, Pucciopedo è brutto. Non sarebbe carino. E dicevo, comunque, per concludere, la prima settimana sono usciti due episodi, dalla prossima settimana uno a settimana, come ci ha abituato Disney Plus anche con il Mandaloriano, e purtroppo anche qui sono episodi decisamente brevi. Il secondo sembrava durare 36 minuti, ma in realtà è una serie un po' particolare, perché ogni episodio ha dei titoli di coda lunghissimi, perché la produzione della serie, anche se non sembrerebbe, molto complessa, e si porta appresso 6 minuti di titoli di coda veri, quindi non per avere poi una scena post credit, ma 6 minuti di titoli di coda veri. Su quanti minuti? Su 36, 6 sono titoli di coda. Che cazzo. Perché c'è tanta gente da c'è troppa gente. Sì. Oh, vabbè. Comunque, insomma, vedetelo prossima settimana, sempre di venerdì alle 9 di mattina. Ah, un'altra cosa, se volete invece, è uscito anche su Netflix la terza parte di Disincanto, che è la serie antologica di Matt Groening, che racconta le storie di questa principessa Bean in un mondo che non ricordo neanche bene come si chiama. L'abbiamo detto mille volte, non è ai livelli dei Simpson, figuriamoci a quelli di Futurama, però comunque è una serie carina che si può guardare. Meco. E anche un po' ioni, dai. Vabbè, ragazzi, altre notiziole di quelle un po' così ce l'abbiamo o ci fermiamo qua? Qual è l'andazzo della serata? Devo esplorare il backlog. Posso recitare da un po' di frasi iconiche del discorso di oggi. Ma guarda, anche una poesia Vogon, sei libero? Poesie Vogon non sono attrezzato, soprattutto perché vi voglio bene, voglio che viviate un altro po', non voglio che poi decida di strapparvi i burbi oculari e per tapparvi le orecchie. Si può fare anche di peggio, però devo ricoprare un po' di cose, sì, per esempio. Intanto, ragazzi, per esempio che Antonio Razzi è stato intercettato che teneva una vascilipote e diceva: Anton, ma perché non fondiamo noi un partito? E non sarebbe una cattiva idea. Guarda, a sto punto, piuttosto che questi disgraziati attuali, quasi quasi li voterei, perché comunque sarebbe quantomeno un bel segnale, sarebbe un voto di protesta epico, secondo me. A votare un partito di razzi e scillipoti sarebbe oltre l'annullare la scheda, andremmo veramente oltre. Il problema è che poi dopo vengono eletti, capito? Cioè, poi dopo devono dirigere le baracche. Ho capito, però... No, intanto ragazzi, stavo leggendo un'altra notizia di cronaca legata al fatto, non so se avevate saputo, che Pfizer avrebbe ritardato la consegna di una, parte dei vaccini. Sì. Oh, vabbè, quella è una notizia sodata, ma leggo invece adesso, notizia di oggi, vaccini Pfizer ritarda ancora le consegne, e Arcuri risponde, incredibile ulteriore ritardo, ma cioè... il ritardo annunciato era questo, non capisco le ulteriori consegne in ritardo quali sarebbero, se stiamo parlando di questa settimana. Vabbè, non ho letto l'articolo per intero, quindi non riesco a entrare nel merito, però comunque qualcuno sostiene che Pfizer stia facendo la furbetta per dare le dosi non a tutti i paesi allo stesso momento. Insomma, non si capisce bene qual è il motivo dietro a questa scelta che sta creando grossissimi problemi, oltretutto perché oltre alle vaccinazioni in programma, adesso siamo arrivati al momento di cominciare a fare anche richiami. L'importante sono i richiami, infatti, perché la vaccinazione, se la tardi, ok, hai ritardato, ma se tardi il richiamo, sono cazzi. Il problema è che il piano vaccinale prevedeva una certa... già era fin troppo ottimista. Quello del 2006? Sì, no, quello era il piano pandemico. No, okay, però il piano vaccinale, che già era assolutamente irrealistico perché era basato su un numero di dosi di vaccino che già non c'erano a pieno regime. Adesso che addirittura verranno meno il 30% delle dosi, chissà per quante settimane, il rischio è che si cominceranno a fare soltanto i richiami e che per esempio la vaccinazione degli over 80, che doveva cominciare in questi giorni, slitterà di una o due settimane. Vallo a sapere. Quindi insomma, per noi quarantenni che dovremmo fare sto benedetto vaccino tra settembre e dicembre, campacavallo, è facile che ci rivediamo nel 2021. Non lo so, Marco, tu che ne pensi? Tu che condividi più o meno la mia stessa età? Beh, che famo prima penso a vaccinarci da soli, insomma, quindi andiamo a fare un Covid party e se sopravviviamo siamo perfetti. Dici, ci facciamo gli anticorpi, potrebbe essere l'unica scelta sensata, sì. O ci chiudiamo dentro casa fino a che non... È che nel caso mio è quello che in pratica sto facendo e non ne posso veramente più. Oppure niente, cioè... Che dico? Aspetta. Vabbè ragazzi, insomma, che allegria questo Covid, chi l'avrebbe mai detto che avrebbe... Che allegria che tutte le cose porta, tutte le malattie porta via, com'era? Aspetta, cioè non era proprio così. Epifania, tutte le feste porta via. Questo è quello originale, poi non so se volevi riformulare il tema. Comunque, se ci fossero in ascolto fan del Milan, sappiano che nel posticipo della giornata di campionato il Milan sta battendo il Cagliari a Cagliari per 2-0. Ecco, così, sempre radio di servizio. La radio di servizio, esattamente. La vecchia radio di servizio che continueremo a fare anche nello streaming 24H. Anzi, facciamo 25H. Vai. Ma sì, ma infatti, aggiungeremo perché omologare le ore? Facciamo il palinsesto di... Anzi, Pizzi, segna. Facciamo il palinsesto di Runtime Radio Live di 25 ore. Basta mandare a 2x. 2x è troppo. Già 1.1x già risolto, secondo me. Devi recuperare un'ora, ci si può stare, insomma. Va bene, ragazzi. Anche perché lo vogliamo ricordare come in apertura... Da lunedì 25 gennaio Runtime Radio diventa ufficialmente una web radio. Dice, perché prima cosa eravate? Prima eravamo solo podcast. Cosa cambierà per chi è abituato ad ascoltare i podcast? Praticamente nulla. Tutti coloro che usufruiscono dei nostri feed o ascoltano le nostre dirette tramite Spreaker non avranno conseguenze. Allora a cosa serve? Serve a diversificare, per avere uno stream sempre attivo dove poter raccontare i nostri vecchi podcast, mandare le repliche dei programmi attuali e creare, perché no, ore di intrattenimento costante per chi si è annoiato alle solite radio, sempre Radio DJ, RTL e tutte queste cose qua. Adesso vi serviamo noi. Basta tutti quei programmi divertenti, quella musica figa, venite anche da noi. Esatto, anche se chi ve lo fa fare, ricordatevi che ci saranno sempre più dirette e contenuti esclusivi e ne parleremo nei prossimi giorni su www.runtimeradio.it. Oh, bello. Adesso ci vorrebbe anche uno sponsor. Sì, infatti, a proposito di sponsor, chi vuole sponsorizzare la propria attività, quello che è, si informa e ce lo mandi, perché Pizzi poi lo metterà a giro, ci si potrà mettere d'accordo perché Pizzi lo metta a giro nello stream 24H. Esatto, quindi, esatto, parlateci di voi, delle vostre attività, perché vi faremo, vi daremo voce e vi daremo spazio sul palinsesto live. Sì, questa è la parte più venale, diciamo, per quanto riguarda attività. Invece, se siete semplicemente un cazzo, cioè se siete degli artisti musicali, se siete musicisti, avete una band oppure in qualche modo avete un vostro progetto musicale, mandatecelo, che idem lo manderemo 24h e cercheremo di farvi conoscere un pelino di più di quello che già siete conosciuti, eventualmente conosciuti adesso, perché Runtime Radio è anche musica. Infatti ci sono due programmi musicali, uno che è abbastanza regolare, mono, che era stato interrotto, poi l'altro che una volta era regolare, mo è stato abbastanza interrotto, che è MDB Samba Radio. Però comunque è anche, cioè non è solo, non si parla solo di politica, di attualità, di tecnologia, di videogiochi e di roba nerdosa e quant'altro, ma c'è anche tanta bella musica, e se volete partecipare anche voi, noi siamo ben lieti. Abbiamo fatto un esperimento durante il lockdown, in cui una settimana, cioè in più o meno da maggio, diciamo, lo inaugurammo praticamente il primo maggio, in cui facemmo sentire anche dei progetti indipendenti, magari non famosissimi, ma neanche troppo poco famosi. Cioè, poi da allora abbiamo deciso, ma mandiamo a giro una canzone a settimana nelle nostre trasmissioni, e vorremmo ripetere questo esperimento per sempre. Ecco, bene. E inoltre ricordiamo, visto che abbiamo fatto 30, facciamo anche 31, che se volete supportare Runtime Radio su www.runtimeradio.it/anche io potete leggere come darci una mano, perché voi lo sapete, Runtime Radio non è una radio che sta qui per fare soldi, però insomma le sue spese le sostiene, perché cerchiamo di darvi una qualità del prodotto e del servizio degna di questo nome, quindi attrezzature, abbonamenti, servizi sostanzialmente vengono pagati dalla buona volontà dello staff, in particolar modo da Simone Pizzi, che è il produttore e il Deus Ex Machina di Runtime Radio, ma anche da Alex Raccuglia e da tutti gli altri che ovviamente collaborano quotidianamente con questa radio. Se volete aiutarci a coprire i costi, perché di questo stiamo parlando, potete farlo diventando nostri patroni, si dice così, su Patreon, anche con un euro al mese. Se invece non vi piacesse il meccanismo di dare in automatico tutti i mesi un euro, due euro, potete fare anche una donazione, una tantum. È stato Natale poche settimane fa e sono sicuro che non avete fatto tanti regali quest'anno. Se vi è avanzata qualcosina, c'è il nostro PayPal e magari potete ricordarvi di noi. Detto questo, invece, ragazzi, su Repubblica, stavo guardando proprio adesso, c'è un articolo che praticamente celebra a 30 anni da un evento. Io adesso vi faccio solo un nome, vediamo se vi ricordate. Se vi dico Gianmarco Bellini. No, Malcoberto. Mai. E se a Bellini ci metto vicino anche un cocciolone? Eh beh, sì, bombardamenti, l'unico caccia italiano abbattuto sul Iraq, praticamente. Non l'unico, però il record fu che il primo caccia, no, credo che ne abbiano abbattuto più di uno, non vorrei sbagliare, però la cosa divertente è che però sono gli che sono esatto, il primo caccia occidentale abbattuto durante la guerra del Golfo del 1991 fu un Tornado italiano pilotato dal maggiore Bellini e dal suo copilota, che era Cocciolone, sì. Che questi due personaggi, che poverini si fecero diversi giorni di prigionia in Iraq, poi fortunatamente furono liberati. E la cosa divertente è che adesso stanno a 30 anni di distanza ricordando quelle giornate, quel momento di guerra. E Bellini dice: oggi sono in pensione, vivo negli USA vicino ad una base, quando vedo gli F-18 penso che vorrei essere ancora lassù. E poi ripercorrendo l'episodio racconta, dice: credevo di essere un superuomo, ma la prigionia mi ha fatto sentire molto piccolo, mi ha fatto capire che anche un Top Gun non è sostanzialmente non è un superuomo. Ora, la cosa che a me fa un pochino ridere, perché poi c'è l'articolo di Repubblica con una foto dell'epoca, è che se tu mi dici Top Gun, inevitabilmente penso ai personaggi iconici del film di Tony Scott, quindi sostanzialmente a Tom Cruise. Poi vado a vedere le foto di Cocciolone e Bellina, di cui uno dei due con questi baffoni da mafioso italo-americano negli anni anni 70, gli aspetta un attimo che forse vediamo se riesco a mandarvi nella chat del programma, più che volentieri vi condivido la foto che ha messo Repubblica, non so se si riesce a vedere, ci proviamo, ditemi se si vede. Perché se si vede, insomma, fa anche un po' sorridere questi due personaggi, pensare che siano due Top Gun, capito? Che insomma c'è un pochino di difficoltà, con tutto il rispetto, perché poi non li voglio denigrare. Che dite, si vede? Sì. E giustamente, come dice Cuciniere, c'era anche Goose. Sì, però insomma, tra Maverick e Goose e Cocciolone e Bellino ci passa, a parte non qualche centimetro, perché probabilmente il basso dei due del nostro duo italiano probabilmente era comunque più alto di Tom Cruise, questo non lo so, però insomma il physique du role non è proprio lo stesso. Però vabbè, dai, così era per rievocare questi momenti che poi furono bruttissimi. Francesco, tu quanti anni avevi durante la prima guerra del Golfo? Eri proprio piccolo. Lui non aveva anni. O non aveva anni? Di che anno sei? No, ce l'avevo. Pochissimi, ce l'avevo. Potevo avere 2-3 anni. No, guerra del Golfo, 3 anni. Nel 91, quindi ok. Io per esempio ero alle scuole medie, ero in prima media e mi ricordo quando andammo a scuola, la mattina prima di andare a scuola iniziò Studio Aperto, questo telegiornale mai visto prima, perché prima non fu lanciato... con l'occasione di dare per primi Emilio Fede, fu questa cosa, è una pagina di storia della televisione, fu il primo a dare la notizia che era iniziata la guerra nel Golfo con questo Studio Aperto, che fu uno dei primi telegiornali dell'allora Fininvest, che non era andato in onda in precedenza. E io mi ricordo la mattina alle 6-7, quando mi preparavo per andare a scuola, sbigottito da questo concetto di guerra, che per un ragazzino di 11 anni era qualcosa di abbastanza assurdo, perché non l'avevamo mai vissuta sotto nessuna forma, se non a livello di spettacolo. Ecco, a un certo punto ci trovammo catapultati in una guerra che, anche se era discretamente, ma poi non troppo lontano da noi, ci coinvolgeva direttamente. Insomma, neanche il tempo di dire siamo in guerra, che il tornado... Che la gente accaparrò tutto quanto il zucchero e la farina presente nei supermercati. Vi ricorda qualcosa questa cosa? Ma questa cosa la facemmo anche quando scoppiò il reattore nucleare a Pripyat, voglio dire, è tipico, si reagisce così. Ma anche appunto alle prime settimane di lockdown, quando siamo diventati, ricordiamoci tutti quanti, panificatori, pizzettari e mastribirrai. E vabbè, e comunque insomma, sorridendo e scherzando, ragazzi, sono passati 30 anni pure da quello. Passeranno 30 anni per parecchie cose, da parecchie cose. Domani sono passati anni. 30 anni, infatti, da un'altra cosa che però non ricordo. Sì, dice Simone, scusa, parlando di Top Gun, dice Maverick era alto il cazzo d'un puff e aveva la faccia da coglione. Sì, che era un gnappo, l'ho confermato anch'io, per quello dico, malgrado tutto, la foto di Cocciolone Bellina, probabilmente l'omologo basso era comunque più alto di Maverick, però al di là di quello sono personaggi insomma abbastanza diversi dagli iconici Top Gun dei film, quello intendevo dire. E poi giustamente Cuciniere dice sì, sarà stato anche alto un cazzo e un barattolo, però non aveva una GPZ 900 e guidava un F14. E vabbè, sì, d'altra parte il personaggio è quello. Vabbè, comunque, insomma, ragazzi, che vi devo dire? Si è fatta una celtica. Si è fatta una celtica? Ah, speriamo non quella celtica lì, che perché insomma, almeno fino al 2023 vorremmo cercare di vivere, come dire, nell'incertezza, non nella certezza del fascismo e del sovranismo, insomma, ce lo auguriamo. Vabbè, dai, allora facciamo così, visto che ci siamo, fermiamoci un momento e diamoci il nostro momento del saluto. A noi? Dipende che no, Marco, no. Scusate, che c'ho ancora quella cosa fascista che... Perché poi bisogna un po' farsi nemici con i fascisti. Beh, toccherà fare qualcosa, toccherà farcene, sì, convivere col fatto che dovremo fare buon viso a cattivo gioco. Vabbè ragazzi, permettetemi di salutare tutti quelli che ci hanno fatto compagnia in chat questa sera. C'erano Cucine nello Spaccio Profondo, c'era la famiglia Pizzi al completo, c'era anche sicuramente Scozia che ci ascoltava, c'era soprattutto inizio puntata Angela, che probabilmente poi avrà deciso che siamo troppo noiosi e si sarà andata a fare una partita di subbuteo, non lo so, qualunque è andata a trovare l'alibi per dormire insieme a lei. Probabilmente, approfittiamo anche per salutare Girasole, anche se non c'è, perché poi magari ci ascolta di ferite e ci rinfacciano averla salutata. Bene, detto questo, quindi chiudiamo questa puntata un po' più breve del solito, salutando le persone che hanno fatto da sodali a questa diretta al sottoscritto. Quindi Marco Gualdi, ciao, vi saluto, ci vediamo la prossima settimana se tutto va bene. E il nostro Francesco Lobby Frontali, io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana se tutto va male. E io credo che andrà tutto male, perché quello è il mood dell'ultimo anno, insomma, anzi ricordiamoci che ormai siamo entrati nel 13° mese del 2020. Detto questo, anch'io da parte mia, da Walter Sbano, è tutto. Vi do appuntamento, ci ascoltiamo lunedì prossimo. Lunedì prossimo vi anticipo che sarà una puntata un po' particolare di OGM, perché se tutto va bene sarà celebrativa e un'occasione per festeggiare la nascita della nuova incarnazione live H24 di Runtime Radio. Quindi appuntamento a lunedì, ragazzi, buonanotte, ciao ciao.